Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa. La padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino. Un altro appresso che dice essere quel desso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcuno dei miei vassalli, a simile razza e comune l'ardir. Ma la contessa ha che un dubbio l'offende, e la rispetta troppo se stessa e l'onore mio. L'onore, dove diamine l'ha posto un male errore.